sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Melog, cronache meridiane, di Gianluca Nicoletti. In pochi minuti l'inferno, un conflitto a fuoco ha sconvolto Ponte di Nanto, nel Vicentino. Poco dopo le 18, una vettura con a bordo 4 o 5 banditi si è fermata di fronte alla gioielleria Zancan. Un malvivente ha tentato l'assalto, ma la porta a bussola è stata bloccata. Un testimone. C'erano uno fuori col mitra e due che stavano distruggendo con la vetrina col martello. Un benzinaio, la cui stazione è a pochi metri, capisce tutto. In braccio il suo fucile, spara un primo colpo in aria. A questo punto i banditi, tutti armati, reagiscono sparando. Adesso dicono che sono sparati fra di loro, però non so perché io arrivato erano già smessi così prima. Per poco ci siamo le penne lì. Durante la sparatoria uno dei banditi alla guida dell'auto viene colpito mortalmente. La vettura finirà col fare una carambola, bloccandosi su un muretto. A questo punto il gruppo d'assalto minaccia i testimoni presenti e si dà alla fuga su un'altra e più potente vettura, dileguandosi. I carabinieri mantengono il più stretto riservo. Il teatro è quello di una serie televisiva dedicata alla malavita organizzata, sembra di vedere una puntata della fortunata serie Gomorra, solo che il teatro è il Vicentino. Della vicenda sta parlando tutta Italia, questa mattina ne ha parlato lungamente anche il collega Milan, ma mi riprendo io l'episodio legato alla sparatoria avvenuta in provincia di Vicenza, il cui protagonista, che in questo momento sta dividendo l'opinione generale degli italiani, è un benzinaio di 65 anni, Graziano Stacchio. Graziano Stacchio, di fronte a un evidente episodio di rapina, spocchiosa, violenta, apertamente sprezzante di tutto ciò che aveva intorno, degli uomini cominciano a bussare, a battere sulla porta della gioielleria, vogliono entrare, sono sicuri di avere l'impunità dalla parte loro. Lui prima minaccia di chiamare i carabinieri, poi va a prendere il fucile da caccia, l'arma che ha in casa. E con quella, in una dinamica che ancora sarà da accertare, ingaggia una sparatoria con i banditi e ne uccide uno. Graziano Stacchio appare ormai nelle foto dei giornali, per qualcuno è un eroe, qualcuno sta preparando le magliette, io sto con Graziano Stacchio, per altri è semplicemente una persona che non doveva prendere quel fucile, non doveva sparare contro appunto i rapinatori. E già per rendere ancora più problematica e difficile il contesto e togliere serenità al nostro giudizio, la famiglia rom del rapinatore già ha chiesto i danni, già ha deciso di denunciare la persona che ha sparato contro la persona che comunque stava facendo una rapina. Il risultato è che Graziano Stacchio, questo benzinaio con il volto provato dalla fatica, lavorare una pompa di benzina è un lavoro faticosissimo, con il cappellino di lana calato sulla fronte, con per paradosso il simbolo del cane a sei zampe dell'Eni, un simbolo che rese il nostro paese orgoglioso negli anni 50, questo cane con sei zampe, nero, con la bocca fiammeggiante, che gli esce una fiammata dalla bocca, da rappresentare l'automobile che faceva tutt'uno con il guidatore, quindi erano quattro ruote più due zampe. Fu un simbolo che sopravvive nella nostra immaginazione della rinascita del nostro paese e oggi è quasi a simbolo di uno dei personaggi che più ci mostrano quelli che sono in realtà le incongruenze, le incapacità di gestire le emergenze nel nostro paese. E voi come la pensate nei confronti dell'episodio di Graziano che ha sparato contro un rapinatore per difendere la commessa di una gioielleria che per lui era come una figlia? Questo da un punto di vista potrebbe dire, ha avuto ragione, lo farei anch'io, è un eroe. Altri dicono però, cioè, per quanto sia problematico il contesto, il quadro a cui si è trovato di fronte, lui doveva avvertire la polizia e non intervenire con un fucile. Perché? Perché il cittadino non si può sostituire alle forze dell'ordine. Questi sono i due punti di vista che cercheremo oggi, per quanto possibile, di chiarire con persone che conoscono la materia. Mi dispiace molto, che è un ricordo che mi porterà per tutta la vita. ma io non mi sento di averlo ucciso, perché è salito sulla macchina con le sue gambe. E mi chiedo se veramente l'ho colpito a morte o se è stato solo ferito. Io non lo so. Se rimaneva lì, io potevo anche praticamente provvedere per intervenire e salvarlo, perché sicuramente se una perdita di sangue bastava anche aver chiamato la convoglianza e fare le trasfusioni di sangue, penso. Mi dispiace profondamente. Sentendo questa dichiarazione viene a pensare che sia tutt'altro che un appassionato di armi, uno che non aspetta altro che di sparare, di farsi giustizia, un giustiziere della notte, ma è un povero signore cacciatore, appassionato di caccia, che ha preso il fucile da caccia perché pensava che era l'unica maniera per risolvere quella situazione, per salvare quella ragazza, e ha sparato sparando in basso. Infatti il rapinatore è salito e è partito con la macchina, dice addirittura: io se si fossero fermati l'avrei aiutato, l'hai aiutato e magari gli avrei salvato la vita. Mario, buongiorno. Buongiorno, guardi, io ho telefonato perché in questi giorni ho parlato con dei miei amici e alcuni di loro, devo dire, che hanno dato questa versione, cioè il benzinaio non doveva sparare, non si può sparare, eccetera, eccetera. Guardi, io sono veramente impressionato, a parte che secondo me lì ricorre anche un altro istituto giuridico, quella che se lui non fosse intervenuto avrebbe commesso un reato per omissione di soccorso, perché allora... Ma guardi, poi... esprima il suo parere, perché poi è una persona che dal punto di vista giuridico ci spiegherà tutto il contesto. Ma io, il mio parere mi sembra che esca fuori automaticamente, cioè non solo ha fatto bene, ma qui bisogna cambiare le leggi, bisogna modificare e bisogna far sì che il cittadino si possa difendere, perché chiamare la polizia, ma ora che non arriva la polizia, che fa? Gli mette il sale. Quindi Mario, lei sarebbe d'accordo per una sorta di allentamento dei limiti nel porto d'armi, quindi ci armiamo e con questo difendiamo la nostra questione di far diventare... No, ma non è, guardi, non ho un punto di vista io buonista o altro, semplicemente volevo capire bene la sintesi del suo giudizio. Si chiamano tante persone, lei dice armiamoci perché così almeno riusciremo a difenderci laddove non arrivano le forze dell'ordine. Benedetto, 800240024, l'argomento ormai è noto. Benedetto, salve, io ho telefonato per puntualizzare una cosa. Il concetto non è, al di là delle frasi di rito che bisogna fare, io se fossi stato lì non avrei sparato perché bisogna la giustizia e quant'altro, ma io mi chiedo, il più gandiano di questo mondo, se vedono una situazione dove la persona cara viene aggredita, cosa scatta nel proprio cervello? È quella la domanda. Beh, diciamo, a caldo chiunque, lui perché era cacciatore, al fucile da caccia. Se noi avessimo avuto a portata di mano la base del microfono che ho qua, che è bella pesante, peserà 2 chili di ferro, uno avrebbe usato quella. Uno, quello che ha a disposizione per difendere la persona, adesso, mette a disposizione. Adesso, in quel momento è stato il fucile, sì. Poteva esserci qualunque cosa. Però mi chiedo, ma ci rendiamo conto che ci troviamo di fronte a un malessere italiano, del fatto che praticamente non siamo più protetti? Io mi chiedo, ma quante denunce bisogna ancora fare che chiudono stazioni di polizia, di carabinieri? Sì, adesso cioè, dove cominciamo? Scusi, se no andrà, va troppo per le lunghe. Il suo punto di vista è comprensibile. Lei è convinto che comunque è una situazione irreversibile, e quindi le persone che decidano di intervenire personalmente e direttamente in episodi come questi non vanno assolutamente censurate. Edoardo Mori, buongiorno. Buongiorno. Edoardo Mori è un ex magistrato, si occupa da oltre 40 anni di armi e di diritto delle armi. Ha scritto diverse edizioni del Codice delle Armi e degli Esplosivi, che è un'enciclopedia giuridica sulle armi. Ha fondato un sito www.earmi.it che ha 3 milioni di visitatori all'anno. E quindi è la persona più adatta a spiegarci quello che è il punto di vista della correttezza del diritto nei confronti di questo episodio. Per quanto sia una persona che ha un fucile da caccia in casa, che usa soltanto per attività venatoria, e si trova ad essere testimone di una rapina in cui è a repentaglio probabilmente l'esistenza e la vita di una persona, ha diritto di intervenire direttamente? Assolutamente. Il benzinaio ha agito perfettamente entro gli ambiti e le linee dettate dalla legge. Aveva diritto di intervenire perché quando vi sono delle persone armate che delinquono, vi è un pericolo totale e generale per lui, per gli altri, per la collettività, per chiunque vi si trova coinvolto, e ha il dovere di, il dovere non ha il dovere, ma se lo fa è come se adempisse a un dovere di proteggere la società. Lui volendo poteva anche far finta di niente, fare una telefonata e nessuno poteva incriminarlo di quello, non esiste omissione di soccorso. Non c'è nessun reato se lui si girava dall'altra parte, nessuno è obbligato a fare l'eroe, ma se uno c'ha il coraggio è giusto che lo faccia. Quindi, da un punto di vista, la denuncia che è stata fatta dalla famiglia, diciamo, del rapinatore, è chiaro, gli avvocati servono per questo. Le indagini che sono in Italia succedono, perché tra l'altro immediatamente nel momento che la depositano, chi la riceve dovrebbe denunziarli per calunnia. Ecco, il magistrato che invece ha preso una posizione nei confronti di Graziano Stacchio. Infatti in Italia non solo deve essere eroe affrontare i rapinatori, bisogna essere anche eroi nel prevedere le conseguenze giudiziarie di ciò che si fa, perché in Italia regolarmente, anche se è di totale evidenza che non c'è nessuna responsabilità e che uno ha agito nel margine della legge, regolarmente si ritrova indagato. Ecco, adesso io facciamo così, diamo le informazioni per il traffico e vorrei che lei mi spiegasse fra un istante esattamente se in questo caso si profila comunque l'ipotesi di reato di eccesso di legittima difesa di fronte alle persone che ti sparano una banda di rapinatori. No, si fermi un attimo, mandiamo il traffico e poi riprendiamo con lei. Melog, cronache meridiane. Un atto dovuto, l'iscrizione nel registro degli indagati di Ilario da Pollogno, l'imprenditore che sabato scorso ha sparato e ucciso Nicolae Valentin Barbatto Romeno, il 36 anni, che si era introdotto in casa sua con altri due complici. L'uomo, 81 anni, è indagato per omicidio volontario, mentre i carabinieri hanno arrestato i due romeni che, senza riuscire a portare via alcun bottino, si erano dati alla fuga. Un quartiere tranquillo della periferia di Roma, una coppia di anziani che trascorre una serata come tante nella villa di Casalboccone quando lui, imprenditore edile, sente dei rumori sospetti. Ci trovavamo su due diversi piani, ha raccontato agli investigatori, mi sono affacciato alla finestra e ho sorpreso uno dei rapinatori in giardino, per questo ho sparato 4 colpi di pistola in aria. Questi sono altri episodi di altri cittadini che avevano armi regolarmente denunciate, regolarmente detenute, armi che hanno ottenuto in carico proprio perché evidentemente avevano espresso il bisogno di difendersi, tutelarsi nella loro proprietà, hanno usate in un momento terribile che non augura nessuno, in cui si sono trovati nell'occasione di doverle usarle, però hanno dovuto rispondere anche loro di eccesso di legittima difesa. Allora, Edoardo Mori, che ricordo che è un ex magistrato, è uno dei maggiori esperti che abbiamo nel nostro paese di armi, di diritto alle armi, a cui ho sottoposto la valutazione di questo caso. Ritorno alla domanda che l'ho fatto prima: in questo caso perché è stato incriminato di eccesso di legittima difesa? Qual era il limite invalicabile di fronte a cui non sarebbe stato più un eccesso? Quando ti viene incontro una persona con una pistola e ti spara e hai un fucile in mano, cosa devi fare per non eccedere? Diciamo questo, il pubblico ministero certe volte si trova di fronte a casi un po' dubbi, occorre fare un'autopsia, in quel caso dall'autopsia potrebbe emergere ad esempio che chi ha sparato alla schiena senza nessuna necessità, in quel caso gli dà l'avviso di garanzia e deve nominarsi un avvocato di fiducia o d'ufficio. Sia ben chiaro che da quel momento, anche se uno è perfettamente innocente, si dovrà pagare a proprie spese l'avvocato d'ufficio o di fiducia che lo difende, che già è una cosa ingiusta, ed è per ciò che il pubblico ministero dovrebbe pensarci bene prima di indagare la gente. Nel caso in esame, quando la situazione è chiara, per poter indagare una persona ci vuole qualche indizio. Qui non c'è un indizio, qui c'è soltanto un'ipotesi di comodo, tanto per mettersi con le spalle al muro. Questo il pubblico ministero poteva benissimo dire: qualunque sia l'esito dell'autopsia, è pacifico che il benzinaio ha agito in immagine di legge e quindi non c'è assolutamente bisogno di indagarlo. Cioè, una banda di rapinatori armati che nemmeno hanno la minima cautela di scappare subito dal luogo del delitto, anzi continuano a sparare, a minacciare persone. Non c'è un contesto più pericoloso in cui uno è legittimato a usare l'arma. La regola della difesa personale, della legittima difesa, della difesa personale, dice che quando ci si trova di fronte a una persona armata e disposta a sparare, sopravvive chi spara prima. Non si può certo pensare ciò che farà il pubblico ministero a ciò che ha detto la Cassazione e altre cose del genere. Uno è costretto a agire. Anche mi sembravano molto determinati di continuare, perché potevano scappare subito quando hanno visto di essere stati scoperti o hanno visto una persona con un fucile che sparava in aria, entravano in macchina e scappavano, finiva lì. Ma quando uno scappa con l'arma in mano è sempre pericoloso, perché si può sempre girare. Uno può salire in macchina e sparare dal finestrino. Quindi in quel caso, quando uno è armato, si è legittimati anche a sparargli alla schiena, perché non si sa se questo non si ferma e non si gira. Senta, so che non voglio fare assolutamente la disquisizione radiofonica di ciò che poi sarà materia di chi dovrà indagare su questo caso, ma un fucile da caccia in che maniera può essere letale? Un fucile da caccia sarà andato a caccia di lepri, di fagiani, non so esattamente che tipo di munizionamento avesse. Dipende dalla distanza, diciamo, il fucile a pallini è letale per un uccello fino a una trentina di metri, 35 metri, con i pallettoni grossi è letale per un uomo fino a una ventina, 20, 25 metri. Diciamo, è plausibile, come dice il benzinaio, che sono saliti in macchina tranquillamente, ce l'ho soltanto ferito, poi è morto perché non è andato a farsi curare per paura di essere... Normalmente, se uno non viene colpito proprio, non so, alla testa, in un occhio, con lesioni di questo tipo, produce solo lesioni e non la morte. Marcello, buongiorno. 800 24 0024, parliamo del caso Graziano Stacchio. Buongiorno Nicoletti. Sì, buongiorno. Buongiorno, io sono un cittadino italiano e sono intervenuto alla sua trasmissione perché, seguendo appunto l'argomento, io percepisco un grande imbarbarimento nella nostra società per quanto riguarda la giustizia. Giustizia che è molto attiva nell'indagare, nel procedere con, come in questo caso, con un'indagine che magari potrebbe anche essere dovuta, d'accordo, però poi alla fine tutti i processi, molti processi finiscono con un nulla di fatto in sostanza, c'è un'impunibilità, c'è una sensazione proprio diffusa, dove praticamente le persone vedono a posto che non c'è una vera giustizia. Si rende conto il paradosso? Noi stiamo in questo momento parlando che la persona sotto processo, sotto accusa, che in questo momento rappresenta l'ambiguità del nostro trattare, è proprio la persona che si è mossa per difendere un'altra persona, che in fondo ha usato fino in fondo il dovere e diritto che ogni cittadino di intervenire quando si trova nel teatro di un reato così grave. Può anche fare finta di niente, come ha detto il nostro ospite, e nessuno può accusarlo per omissione di atto d'eroismo, ma il momento che interviene poi si trova a essere lui messo sotto accusa. Questo è il paradosso. Questo appunto, sì. C'è una grande mancanza di giustizia a mio vedere, a mio pensare, ecco, per quanto riguarda queste azioni, perché di fronte a una situazione del genere viene spontaneo pensare e dire che il benzinaio è stato un eroe. Io lo ritengo un eroe. Ma l'eroe adesso, l'eroe sono parole grosse, gli eroi sono quelli che non sopravvivono a chi li proclama tali, quindi poverino, è una persona molto coraggiosa che poteva far finta di niente, poteva andare a casa e telefonare, o poteva mettersi a urlare alla finestra, che ne so. Ha fatto un atto determinato, un atto coraggioso, perché sapeva benissimo che andava a scontrarsi con persone molto decise. Questi stanno spaccando tutto, urlando, minacciando. Non erano due ragazzini sprovveduti, era una banda armata di rapinatori. Laura, buongiorno. Eccomi, buongiorno. Sì. Legittima difesa, voglio arrivare subito al punto. Quando si parla di legittima difesa e praticamente una persona viene aggredita con delle armi, non si può certo andare lì e dire scusate che state facendo. Quindi la reazione è stata più che corretta, anzi coraggiosa, non eroica, coraggiosa. Grazie. Un'altra Francesco, che... sì, prego Laura, finisca velocemente. Aspetta, un attimo. Sì. La legge quindi non dovrebbe dare la possibilità di costituirsi parte civile ai delinquenti. Un'altra cosa ancora, non dovrebbe neppure accogliere la richiesta cartacea in cui si fa questa costituzione, questa richiesta, altrimenti si genera un precedente. Il precedente è che si perde il senso della giustizia. Ferma là, no, ho letto una cosa importante. Edoardo Mori, rispetto a quello che dice la nostra ascoltatrice. L'ho detto prima, io se fossi stato giudice che riceve una denuncia del genere, dopo 30 secondi chi l'ha presentata è accusato lui di calunnia. Quindi, come se lo spiega però, dottor Mori? Lei, l'opinione pubblica è sin troppo palese e chiaro, al di là delle opinioni dei giornali, di qualche editorialista che può dire fino in fondo ancora difendere l'indifendibile. Io se facessimo noi un un censimento un sondaggio in tutto il paese, tutti direbbero: ma lasciate in pace questo poveretto, già ne ha viste troppe brutte. Come mai i magistrati invece nemmeno di fronte a questa palese evidenza hanno ancora questo atteggiamento, diciamo, che mi sembra abbastanza retro come atteggiamento, di dire è una moda degli ultimi anni di indagare assolutamente tutti, che è una cosa assurda, perché indagare è un fatto estremamente grave. Prima di tutto non dovrebbero dirlo a nessuno e tenerlo ben segreto che hanno indagato una persona, perché dire che è indagato vuol dire nell'opinione pubblica spopolata. Ma di solito, mi scusi, non parte l'avviso di garanzia dopo che c'è stato un accertamento sullo svolgimento dei fatti? Qua è avvenuto tutto nel giro di un weekend e già lui è stato incriminato, mi sembra, è stato, diciamo, avvisato. Sì, assolutamente un modo di... Avvisato, scusate, il termine giusto. Assolutamente avventato, perché come ho detto prima, esaminato la denuncia, esaminati i fatti, che si poteva tranquillamente aspettare un giorno o due, ma probabilmente i carabinieri hanno segnalato subito i fatti, il PM era in grado di dire: qui non emerge il minimo indizio a carico del soggetto, perché non basta sparare per essere indiziati, bisogna aver cagionato una morte violando delle norme di legge. E quali norme ha violato? Non certo quella sulla legittima difesa, perché il pericolo era talmente grave che ci stava tutta. Tra l'altro, dice un eroe: uno che affronta della gente con i Kalashnikov, bisogna essere degli eroi, perché possono essere, normalmente sono armi a raffica, e quindi anche se avessero sparato a 150 metri di distanza lo facevano secco. Sì, comunque sono armi che se ti prendono poi dopo non è che ti fanno le carezze. Purtroppo il sistema che adesso è crollato, perché è venuto a meno totalmente la pena. Siamo invasi da delinquenti che sono già stati condannati 3 volte e sono sempre fuori. Diciamo, noi abbiamo un benzinaio di 65 anni che con un fucile da caccia, Pallini, probabilmente ha affrontato una banda di rapinatori con armi da guerra in mano, e il suo problema oggi è che è stato accusato di eccesso di legittima difesa. Grazie, dottore Edoardo Mori. A domani.